una valutazione generale è abbastanza facile da fare, ovvero i 26 punti del programma che si sono poi ufficializzati in 29 per quanto riguarda la parte più relativa al lavoro in generale, all'economia, di fatto è un tutto e niente. Un tutto e niente che nasconde sostanzialmente la competizione tra le parti contraenti, che poi sono appunto i due partiti di governo, Movimento 5 Stelle e PD, la cui via di fuga che appare, che si intravede appunto in questo documento, che sono qualche paginetta, sembra quella di una via concertativa e abbastanza, diciamo, di pace sociale. Allora, da un lato si parla di riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori, soprattutto a favore dei lavoratori, ma ovviamente anche tanti incentivi alle imprese, incentivi per il Made in Italy, per l'agricoltura, per gli investimenti in tecnologia, per la riconversione ecologica e così via. Allo stesso tempo, questo in qualche modo ci fa capire che l'indirizzo è quello che hanno anche loro capito ragionevolmente, che non si può continuare a fare austerità dura, però bisogna mantenere gli equilibri, equilibri nei rapporti sociali, equilibri nei rapporti di forza. Dietro, diciamo, cuneo fiscale, detassazione delle imprese di tutti i tipi, ci sono altri punti che toccano ovviamente anche l'economia. Ad esempio si parla di rilanciare l'agricoltura come settore strategico e quindi incentivando tutte le colture specializzate eccetera eccetera dell'Italia, però non si aggredisce per esempio il tema delle filiere produttive del settore agricolo, che poi sono quelle dove divampa quotidianamente il fenomeno del caporalato. Quindi in qualche modo di nuovo torna il fatto che gli interessi veri da andare a sfidare rimangono abbastanza a sottotraccia. Dal punto di vista economico, un'altra cosa interessante è vedere la grande contraddizione tra confermare l'intenzione dell'autonomia differenziata per il Nord, però questa volta si rilancia anche il lavoro e la crescita al Sud. Come lo si fa? Attraverso una banca pubblica di investimenti che finanzia però aziende private. E allora fa quasi ridere, perché poi un altro degli articoli è: i giovani che emigrano devono poter avere il diritto di tornare in Italia, però sempre soltanto per il merito, che non si capisce in questo caso se il merito di avere il diritto di rientrare, il merito di farsi poi sfruttare e così via. Quindi complessivamente è un programma che dice tutto e niente, che prova a tenere col bilancino un accordo di governo che è veramente molto instabile, ma non soltanto, diciamo, per l'opposizione tra i due partiti che, come dire, competendo tra di loro e anche al loro interno, quindi l'area renziana rispetto a quella zingarettiana, e lo stesso avviene nel Movimento 5 Stelle, hanno davanti dei vincoli, anche delle sfide molto importanti sia dal punto di vista economico che geopolitico. Basti pensare alla recessione che è alle porte della Germania e che è l'unico vero motivo che permetterà all'Italia di avere in qualche modo più flessibilità in Europa, perché la Germania questa volta dovrà chiedere molto di più, e dall'altro lato anche un'instabilità globale che in qualche modo interviene insieme alla questione dei dazi tra Stati Uniti e Cina. Tu già lo accennavi, nel programma c'è scritto nero su bianco che si vuole fare, come dire, un programma di un'economia appunto espansiva. Al tempo stesso però si vuole scongiurare che scatti la clausola di salvaguardia, quindi l'aumento dell'IVA al 25%. Quindi cosa ci dobbiamo aspettare? Taglio ai servizi? Ma allora, quest'anno probabilmente, come dicevo, rispetto a quello che sta succedendo in Europa, è probabile che la flessibilità sia tale, la flessibilità accordata ovviamente dall'Europa e non scelta con forza e strappata coi denti al governo italiano, sia tale da disinnescare l'IVA e da permettere in qualche modo questa un po' di spartizione tra riduzione del cuneo fiscale, magari fatta in deficit questa volta, ma anche deficit per le imprese. Ovviamente ci saranno dei tagli e altre imposte, però diciamo, su questo ancora non c'è davvero nessuna traccia. La questione è che c'è lo spazio per una manovra che porti il deficit davvero oltre il 2,3%, che significherebbe la manovra più espansiva, se vogliamo, dal punto di vista del bilancio degli ultimi, forse quasi decenni. Il problema è che è tutta appunto una misura espansiva, come dire, di controllo sociale, no? Verso la pacificazione sociale. Disinnescare il conflitto è la cosa più importante, perché altrimenti significava alziamo i salari e abbassiamo i profitti, cioè entrare in uno scontro reale dentro quello che è la società o meno. Significherebbe togliamo le esternalizzazioni e torniamo indietro anche sulle privatizzazioni e programmiamo l'economia in direzione politica, eccetera. Tutte queste cose qua, che sono la vera sfida politica di fondo, non è affrontato. Ecco, un ultimo passaggio riguarda i lavoratori digitali, i riders, che pure vengono citati. Di Maio aveva cominciato simbolicamente, quando era al Mise, il suo operato, il suo mandato, incontrandoli e promettendo, ma sono, diciamo, i primi grandi delusi. Sappiamo che in realtà è anche simbolica la questione dei riders, perché è, come dire, la matrice di una nuova forma di sfruttamento. Sì e no. Allora, sicuramente questo articolo del programma è tra i più esilaranti, nel senso che la questione dei rider come lavoratori lavoratori digitali e non lavoratori in carne ed ossa, e quindi si cita proprio tra parentesi i riders, che poi fanno una cosa molto materiale, trasportano pasti a domicilio, che sono sempre delle sostanze, no, in una delle tre forme della materia, no, liquido, gassoso, solido, rientrano dentro la governance della società digitale, quindi significa già una nebulosa. Staccarli da quello che è invece il pezzo relativo al lavoro, il che significa di nuovo risegmentare la disciplina del mondo del lavoro, sì, diamogli i diritti, non si sa in che termini. La stessa cosa avviene per quanto riguarda il diritto alla casa e la gestione della società, del pezzo della società digitale che si occupa di turismo, di affitti e di accoglienza, che significa Airbnb. Ci devono spiegare dov'è il digitale in sé nel momento in cui gli affitti, cioè, non vengono né controllati, ma soprattutto le case in affitto per, diciamo, i cittadini diminuiscono proprio perché c'è la possibilità di affittarli a breve termine. Diciamo, questa è una un po' delle supercazzole che sono state inserite, giusto per toccare secondo me l'argomento, però non è chiaro cosa si voglia fare.